4 3 7 0 Pronto? La più bella sei tu. Chi parla? Il tuo nome è Lili. Sì, sono Lili. Spettinata così. Come dici, scusa? Tu mi piaci di più. Ma chi è che parla? Sei tu, Gianni? Oh no. No, e allora chi sei, Giuseppe? Non cambiare anche tu. Anche Antonio! Non tagliarti i capelli. Ma che cosa dici, scusa? Non truccarti di più. Caro, guarda che non ho capito nemmeno una parola. Ti dispiace di riprendere per piacere? Perché tu, qua sta anche la linea adesso. Pronto? Hai deciso così? Io non ho deciso ancora niente. Di vestirti di rosso. Ma io mi vesto come mi pare. Di chiamarti Gigi. Che ti ha raccontato questa sciocchezza? Vivi così. Come sarebbe a dire? Tra boutique e caffè. Il caffè, figurati, fa diventare nervosi. Mangi roast beef. Lo odio. Bevi solo frappè. Ma naturalmente. Ma perché? Perché mi piace. Oh no. Figuro che su una volta tu mi dici di sì. Resta sempre così. Ma caro, sono in pigiama. Col musetto pulito. Ah, mi conosci bene. Col tuo nome Lili. Meno male, non più Gigi. La più bella sei tu. Oh, grazie caro. Spettinata così. Oh, ma che simpatico di uno, vero? Buonanotte, Lili. Buonanotte, tesoro, ci telefoniamo domani, eh? 4 7 2 e 3 Pronto? Il più bello sei tu. Come dice, signore? Il mio nome è Lili. Ha detto che si chiama Lili. Spettinato. Ma come spettinato? Oddio, spettinato tu proprio. Mi piaci di più. Signorina, ci siamo conosciuti a Racconigi. Oh no. Allora qui a Cuneo. Non cambiare anche tu. Ma non cambio, cerco di ricordarlo. Non tagliarti i capelli. Buona questa. Non nasconderti. Un momento che le passo il mio fratellino Siculo Meledale. Ma tu falle da luna perché cupalla. Hai deciso così. Se proprio ieri decisi di non fumare più. Di vestirti di rosso. Dopo il 15 giugno lo credo. Di chiamarti Gigi. Non cominciamo con le insinuazioni. Vivi così. E non so viso Gigi e ciriga vero. E caffè. Ha già si è spersa la voce, vero? Mangi rosbif. Eppure il bucatino alla matriciana, vero? Bevi solo frappè. Ma ce l'hai in cassetto? Ma perché? E vatta ripone. Oh, no. Insomma, se posso sapere con chi vuole parlare. Resta sempre così. No, brigadiere, voglio essere promosso. Col musetto pulito. I baffi mi faccio crescere. Il mio nome è Lili. No. Il più bello sei tu. Sono il più bello. Spettinato così. Spettinato lui. Dica. Qui vi parla Lili. Ma che facciamo? Ricominciamo da capo. Buonanotte, Lili.